Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. And now to honor America, please stand and remove your cap for the performance of our national anthem. I mean, ultimately it's to bring awareness and make people, and that's something that needs to change. That's something that, you know, this country stands for: freedom, liberty, justice for all. And it's not happening for all right now. Un inno che risuona in uno stadio, un uomo che nel mentre poggia a terra un ginocchio in segno di dissenso e l'America che si interroga. Passano anche attraverso i campi di football americano, basket, baseball, le tensioni razziali che stanno nuovamente attraversando gli Stati Uniti. E fiaccano il vento che gonfia la bandiera a stelle strisce e incrinano il coro che accompagna l'esecuzione di The Star Spangled Banner, l'inno americano, parte essenziale della liturgia pregara di ogni evento sportivo oltreoceano. A iniziare la protesta è stato Colin Kaepernick, quarterback di riserva dei San Francisco 49ers, che abbiamo sentito pochi istanti fa. L'ho fatto non per mancare di rispetto all'inno, ma per far capire alla gente come vanno le cose in America. Questa nazione esiste per garantire libertà e giustizia per tutti, ma oggi non è così, ha spiegato Kaepernick, che dal 26 agosto, nella gara precampionato contro Green Bay, ha iniziato a inginocchiarsi o a sedersi durante l'inno nazionale, in segno di protesta per le violenze della polizia nei confronti di molti afroamericani nel paese. Un gesto che ha fatto e sta facendo discutere, ma che ha fatto anche molti proseliti in tutto lo sport statunitense. Ne parliamo oggi con alcuni ospiti che ben conoscono la realtà dello sport americano. E allora voliamo subito a New York. Massimo Lopez Peña, corrispondente della Gazzetta dello Sport, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, sarà un piacere. Ecco Massimo, chiariamo subito. Negli Stati Uniti l'esecuzione dell'inno nazionale è il cuore della liturgia pregara di ogni evento sportivo, di ogni ordine e grado, vero? Esatto, viene suonato prima di tutti gli eventi sportivi, non solo quelli, diciamo, più importanti dello sport professionistico, ma anche dello sport di college, universitario, di liceo e in tante altre occasioni. È come una forma ufficiale, una specie di calcio d'inizio, chiamiamola così, di qualsiasi evento sportivo. E a ogni livello ha preso piede la protesta contro l'inno, mi pare. In occasione di una delle prime partite di pre-season, per esempio i Toronto Raptors si sono stretti tutti le braccia intorno e hanno fatto questa forma di protesta. Adesso, per esempio, i New York Knicks con Carmelo Anthony decideranno, sicuramente faranno anche loro una protesta, ma dovevano ancora decidere che cosa, e lo faranno comunque collettivamente, non saranno iniziative individuali come per esempio è stato quella dell'iniziatore di tutta questa faccenda, appunto Colin Kaepernick, che tu menzionavi all'inizio, del quarterback dei San Francisco 49ers. Allora bisogna pensare a che cos'è. È difficile da spiegare perché in un certo senso l'inno, la bandiera sono i grandi simboli. Qua sai che è un paese molto nazionalista, ci sono i cosiddetti patrioti, i soldati, l'esercito, i marine, eccetera. E mancare di rispetto a uno di questi simboli è una cosa molto molto grave. Addirittura qualcuno parla esagerando il tradimento. Ma poi bisogna riconsiderare un po' le cose. Prima di tutto c'è la Costituzione americana che parla chiaro, che ognuno ha la libertà di parola, di espressione, può assolutamente esprimere nei limiti ovviamente della legge il proprio dissenso. E da questo dissenso è nato un polverone, come mai in passato forse. Kaepernick ha, secondo me, il grande merito di avere stimolato un dibattito, ed è esattamente quello che lui voleva fare, era il suo obiettivo, cioè stimolare un dibattito in un paese che spesso è troppo uniforme, cioè non c'è un grande, a parte, diciamo, i dibattiti politici che vediamo in televisione, ma non si va, è difficile che si senta persone parlare, prendere posizione precisa, netta. Gli stessi atleti, pur avendo una cassa di risonanza pazzesca, spesso non hanno preferito tacere. Ricordo ai tuoi radioascoltatori, ad esempio, personaggi come Michael Jordan e come Tiger Woods, grandissimi campioni, e cito due personaggi di colore proprio apposta perché in questo caso si parla di razzismo. Michael Jordan e Tiger Woods hanno spesso evitato di entrare in dispute politiche, hanno preferito stare alla larga da situazioni appunto sociali, politiche, eccetera. Un po' si diceva perché per evitare di far così arrabbiare i propri sponsor e quindi di evitare magari di essere tagliati da certi contratti molto, molto favorevoli economicamente. Ti chiedo, Massimo, proprio in questi giorni Tommy Smith e John Carlos, i protagonisti della clamorosa protesta sul podio dei 200 metri a Città del Messico nel 1968, sono stati ricevuti alla Casa Bianca. Secondo te c'è un filo rosso che lega quel gesto di allora a quello di oggi di Kaepernick e di molti altri sportivi? Hai citato due personaggi incredibili, perché se ci pensi bene, quando Smith e Carlos alzarono il pugno guantato a Città del Messico nel 68 furono espulsi dalla squadra olimpica americana. Oggi che questo Kaepernick ha fatto questa protesta, anche questa tra l'altro una protesta totalmente pacifica, si è inginocchiato, ha messo giù un ginocchio durante l'inno proprio per far vedere che lui non voleva stare in piedi di fronte a questa America che Trump definisce il più grande paese di sempre. Lui ha detto, ma cioè, più grande per chi? Non per tutti, evidentemente. E ancora oggi, 50 anni dopo, la protesta di Kaepernick, almeno inizialmente, aveva fatto storcere il naso a tantissima gente, ha ricevuto anche minacce di morte, oggi, nel 2016. C'è quindi una sorta di continuità tra questi due momenti? Beh, dire continuità, essendo passati quasi 50 anni, è difficile. Però fa molto piacere che finalmente era il momento. Io mi chiedevo a volte come mai appunto personaggi come Michael Jordan non facessero valere la loro parola, la loro forza, la loro potenza mediatica che già allora avevano in situazioni del genere. Io sono in qualche modo lieto che questo sia accaduto. Io vivo in America da 30 anni, è un paese dove Bernie Sanders, se avesse parlato, avesse fatto i comizi che ha tenuto 30 anni fa, probabilmente lo avrebbero espulso dal paese, e non sto scherzando. Finalmente sta cambiando, evidentemente sta cambiando qualcosa. Finalmente si riesce a diciamo, questa corazza anche che questo paese si è creato, sta cominciando un po' a cadere, si sta parlando di certi argomenti scottanti, di certi argomenti che per molti anni sono stati tabù. Ritieni, Massimo, che questa protesta silenziosa possa continuare fino al palcoscenico più importante, quello del Super Bowl che quest'anno si disputerà a Houston il 5 febbraio? Ma guarda, io credo che la protesta sia già stata, si sia consumata in questo modo, adesso si verrà estesa, perché anche una volta che partirà l'NBA ci sarà, c'è già la WNBA, lo ha fatto, la NBA lo farà. Credo che alla fine, io credo, non lo so, non lo posso, ovviamente non si può, è una cosa che non si può predire, io credo che si andrà avanti su questa linea fino a quando forse qualcosa non cambierà. Non credo che al Super Bowl, a meno che non ci sia un accordo di entrambe le squadre, di tutti i giocatori di entrambe le squadre, non credo che ci sarà qualcosa per rimanere in tema super clamoroso, ecco. Questa è la mia idea. Massimo Lopez Peña, continuiamo a seguirti su Twitter al nickname Peñarol, ma è tanto grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per avermi avuto come ospite. Qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Olimpia, miti e verità dello sport. say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? I mean, ultimately, it's to bring awareness and make people. And that's something that needs to change. That's something that, you know, this country stands for: freedom, liberty, justice for all. And it's not happening for all right now. La voce splendida di Lady Gaga, che ha interpretato l'inno americano durante l'ultimo Super Bowl, e la voce stentorea di Colin Kaepernick, il quarterback di riserva dei San Francisco 49ers, che inginocchiandosi proprio durante l'esecuzione di quest'inno, a partire dallo scorso agosto, ha dato il là alla protesta di tanti campioni afroamericani contro le violenze della polizia in molte città degli Stati Uniti. Di tutto questo stiamo parlando oggi qui a Olympia e continuiamo a farlo con chi quell'inno lo ha sentito spesso cantare proprio sui parquet del basket statunitense. Bandiera della squadra di schio e della nazionale azzurra di basket femminile, ha sfiorato l'anello della WNBA, l'NBA in rosa, con la maglia delle Los Angeles Sparks. Raffaella Masciadri, benvenuta a Olympia, la città dello sport. Ciao, grazie mille e un saluto a tutti quanti. Allora Raffaella, nello sport americano e anche nel basket, quindi, l'inno è quasi un rito sacro, eh? Sì, sì, è vero, è molto sentito e infatti ho dei piacevoli ricordi a riguardo, perché comunque in ogni palazzetto in cui si andava c'era sempre, diciamo, la cantante del momento o comunque qualcuno che cantava questo inno o a cappella o comunque con naturalmente con voce live, e insomma a me è sempre fatto venire i brividi nonostante non fosse il mio inno nazionale, ecco, però è sempre stato un momento molto molto particolare e credo che insomma gli americani siano già patriottici di loro e questo lo testimoniava ancora di più. Ma detto fuori dai denti, non è che in America esagerano pure un po', suonando l'inno in ogni santa occasione possibile? Ma sì, ti dirò di sì, che sotto certi aspetti è un po' eccessivo, perché comunque se lo trasporto, diciamo, anche nel campionato italiano, probabilmente per ogni singola partita fare l'inno nazionale, forse per noi italiani, tra virgolette, anche troppo. È logico che io lo vedo forse più collegato alle partite della nazionale, ecco, se è giusto che prima di una partita della nazionale insomma ci sia l'inno italiano, quello sì, perché comunque insomma stai rappresentando il tuo paese nel campionato italiano. Probabilmente è giusto magari farlo all'inizio del campionato, durante i playoff, durante la finale, però io lo vedo collegato più che altro magari agli eventi con la nazionale, quello sì, e così anche mi sarei aspettato in America. Però ovviamente, ripeto, sappiamo quanto sono patriottici, quanto ci tengono a queste cose, quindi lì è tutto portato un po' anche alla massima potenza, ecco. Ma tu la faresti una protesta del genere? No, quello no, devo dirti la verità, no. Io alla fine, che personalmente l'inno per me è una cosa sacra, una cosa importantissima e non mi permetterei mai di sentire né che sia il mio inno italiano né che sia l'inno di qualche altra nazione, perché comunque credo che sia una cosa che vada un po' al di fuori di tutto e vada rispettato proprio per principio, perché comunque è l'inno di una nazione e insomma io non me la sentirei di dissentire o di fare qualcosa contro questo. A proposito, presto lo ricanterai con la maglia azzurra, il nostro di inno, vero? Sì, adesso a novembre giochiamo le ultime due partite di qualificazione per gli europei, il 19 novembre giochiamo a Lucca contro la Gran Bretagna e sarà una partita chiave, perché comunque vincendola siamo matematicamente agli europei e siamo prime nel girone. E allora Raffaella Masciadri, in bocca al lupo a te e alle altre azzurre e grazie per essere stata ospite di Olympia. Crepi e grazie mille a voi per l'invito. Di sport e non solo, a stelle e strisce stiamo parlando, e allora non poteva mancare la voce dello sport americano in Italia per antonomasia. Coach Dan Peterson, benvenuto a Olimpia. Amici sportivi e non sportivi, grazie per l'invito. Coach, vedendo la protesta di Kaepernick da qui, dall'Italia, confrontandosi con i suoi contatti americani, che idea si è fatto? Io penso che c'è un luogo giusto per ogni cosa. Kaepernick ha scelto un luogo di grandissima visibilità, ma guarda caso quello che il proprietario di Dallas Cowboys, Jerry Jones, ha detto: io sono proprietario, tutti voi, allenatori, addetti al lavoro, giocatori, tutti siete i miei dipendenti. Io dico, chiunque dell'organizzazione che non si alza per l'inno nazionale con la mano sul cuore, la licenza in trogo. Ovviamente lui forse avrà difficoltà per questo, ma molti pensano così. Se devi fare una protesta, non farlo in casa mia. E qual è la sua convinzione personale su queste tensioni che stanno scuotendo gli Stati Uniti, coach? Io definisco tutto ciò una strategia sbagliata. C'è maniera e maniera di fare queste cose. Tu sei preoccupato per le polizie che magari sparano e uccidono un uomo di colore in questo caso? Organizzati, organizzatevi, prendete gli avvocati, investigatori, fai un processo, lì è la strada giusta, non queste cose qui di tumulti o uno che va in ginocchio. Bisogna fare una cosa concreta, però sai, è più comodo nella vita fare la cosa che va scena, che fa colpo e poi non ci seguito. Quindi è un ciclo destinato a ripetersi con altri disastri, altre tragedie e altre proteste, purtroppo. Ecco, nella sua carriera le è mai capitato di dover gestire una situazione simile? No, no, io sono solamente che nel 1968, un anno in tutto il mondo di grandi proteste, eccetera, io ero allenatore all'Università di Delaware. I miei giocatori di basket, avevo un solo ragazzo, due sole ragazze di colore nel programma. Uno si è messo abbastanza a fare le cose, ma non del tanto. Diciamo, effetto a lunga distanza, no, c'è proprio, e su di me personalmente, no, assolutamente. Avrei detto come uomo americano, patriota, se posso dire questa parola così, volete fare una protesta? Farlo senza offendere la gente, ok? Cioè, vorrei dire questo, dillo, perché nessuno dice di no. C'è maniera e maniera di fare le cose. Secondo lei questa protesta avrà un riflesso sulla corsa alla Casa Bianca? Sì e no, ok. Per esempio, dicono in America ci sono in ogni elezione due soli argomenti che pesano: sicurezza nazionale, economia. Se Clinton e Trump si indirizzano a rispondere a queste due esigenze del popolo americano, uno che lo fa meglio avrà successo nell'elezione, chi lo fa peggio no. Quindi la gente vuole essere sicuro, insicura in questi tempi di terrorismo e altre cose, e non vuole trovare il portafoglio vuoto alla fine del mese per l'economia. Quindi loro devono veramente pensarci bene a queste due cose qui e non le altre cose che li stanno occupando adesso. Coach Dan Peterson, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Ok, arrivederci a tutti.